po, un po' pubblico, non chiedermi bibis, che il rit, che il rito tornello, ognor fofo, zup, zup, zuppatore, per in gna gna gna gna gna sì. Ma per sei cacca, cacca, cacarti, l'inferno. No, no. Siamo pronti, incominciamo! Dulcifernio!